Test attitudinale di quest'oggi dedicato a Nevermind dei Nirvana, o meglio a Smell Like Teen Spirit, uno dei brani più celebri dei Nirvana. Perché Cobain scelse proprio quel titolo? Forse perché suggerito da Donna Rosa, una cartomante di Seattle che esatto frequentava? No, sbagliato. No, non è questa. Volevo trarvi in inganno. Forse è tratto dal titolo di un articolo del giornalino della scuola dove il compagno scanzonava le composizioni del giovane Cobain e gli diceva che puzzavano d'adolescenza? Infatti, no, esatto! Sbagliata anche questa. Anche questa è sbagliata. La soluzione esatta è la C. La 3. Trasse ispirazione dal muro vicino a casa dove una sua ex fidanzata scrisse Cart Smell Like Teen Spirit per così scassare Cobain. Segnaliamo che Teen Spirit era un profumo per adolescenti molto in voga all'epoca e probabilmente la ragazza si riferiva a quello, mentre poi Cobain decise di leggerlo come Cart profuma di spirito adolescenziale e da qui nacque la canzone. Vede? Vede? Cosa? DJ Ariele, sì? Le canzoni spesso nascono da un equivoco. O sono come fiori. O sono come fiori. Oppure, come nel caso di Mi piacciono le sbarbine, sì? Nascono da un fraintendimento, nel senso che il sottoscritto che la scrisse sì? Pensava di tradurre un brano dei Ramones, I Like Girls, che non esiste, ma nella mia testa, traducendo malamente un brano inesistente dei Ramones, fraintendendo le parole inglesi di una canzone dei Ramones, io dissi voglio sviluppare questo tema di mi piacciono le ragazzine e divenne poi mi piacciono le sbarbine, quando si dice il caso. Ma guarda te. Smell Like Teen Spirit, Nirvana. Qui c'è l'Ariel e questa è Rock FM. Pane, burro e rock and roll. Oggi festeggiamo il primo anno d'attività con una puntata tutta particolare nella quale vi abbiamo chiesto di partecipare in prima linea con una domanda semplice: perché ascoltate Rock FM? Ho scoperto ufficialmente che il lettore di SMS dopo un tot di messaggi li archivia ma non me li fa più vedere, quindi avendo ormai imparato a gestire le macchine di Rock FM ho trovato l'escamotage per far scaricare gli altri. Siete veramente tantissimi al 335 100 77 77. Chiedo scusa all'amica che ho in linea, che tra poco saluto, ma questo volevo leggerlo. Io vi ascolto perché mi rendete colto, sul mio mezzo di trasporto mi addolcite se son torto, le altre radio non sopporto, meglio sordo oppure morto, ho bisogno del distorto. Grazie a voi il rock è risorto, quindi al fine viva il rock e scusatemi se è poc. Grazie chiunque tu sia. E un saluto invece a Michela da Firenze, diciottenne. Oh, la gioventù di Rock FM. Come va Michela? Bene, bene, grazie. A casa, ma prima a Matte gli ho detto vai a scuola e siete in vacanza voi? Io sì, da giovedì scorso. Ma tutti o no? Cioè dici che sono così sturzo che ho detto a Matte buona scuola, invece può essere che era in vacanza? No, alcuni sì, hanno fatto scuola fino a oggi, penso. Okay. Michela, perché ascolti Rock FM? Perché il rock è rock. Ma perché il rock è rock? Perché sì. Tu che c'hai 18 anni e lo sai, perché? Ma io non lo sapevo fino a 2 anni fa. Ah, l'hai scoperto dopo? Sì. Quindi c'è quel gene lì? L'ho scoperto dopo. Cos'è stato un CD a fartelo un scoprire? Un CD, sì. Di cosa, dillo, il dai. I Clash. I Clash. Sì. Te l'hanno regalato? No. L'ho ascoltato e poi l'ho comprato. Ma dove l'hai ascoltato? Da dove è saltato fuori? Dai ragazzi. Ah, aia. Il moroso è sempre lo stesso o l'abbiamo cambiato? Lo stesso. Ah, è sempre lo stesso? Sì. E l'importante è che non cambi il rock, eh? Il moroso no, può anche cambiare, detto tra me. Non cambio mai. Senza offesa, salutando anche il moroso. Sì. Quindi è per questo. Perché sai, la cosa strana è che gli altri che ci ascoltano magari hanno più anni di te, 50, 60, c'hanno la stessa cosa per il rock, uguale, cioè si sentono dei diciottenni, anzi, si sentono dei quattordicenni a volte, capita anche a me a volte. Anche a me, anche a 18 anni. Senti, grazie per la testimonianza e allora buona vacanza. Grazie, grazie a te. E ci sentiamo presto, speriamo. Sì, ciao. Ciao Ariel. Beh, noi avremo le apparecchiature così, ma a volte anche i vostri telefoni sono così. Te va i Clash, umama, London Calling. Questo è pane, burro, rock and roll, 365 giorni. Tutti di filato, eh? Chapeau. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother. You can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. Oh. they said, but some of it was true. Thunder and calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? A me a quest'ora della giornata, Freak, mi viene sempre un buco allo stomaco. E anche un certo languorino. Esattamente. E allora che fare? Ci vorrebbe una colazione. Stamattina nessun radioascoltatore ha portato nulla, ho chiamato il bar qua sotto. Ma è rock la colazione? Beh, se è cappuccino brioche e ascolti pane, burro e rock and roll, sì. Allora sì. Allora proviamo, proviamo. Provision! No! Lui! Buongiorno, sir. Allora, buongiorno, io vorrei capire, Rudy. C'è un misunderstanding. Io chiamo il bar locale qua sotto. Sì. Chiedo cappuccino brioche, mi dicono di sì e poi sale lei. Cappuccino e brioche per pane, rock and roll. Sì, ma l'ho già l'ho capito, sì. La cosa qui è riso al curry. Questo è riso al curry. Ma come fa? Riso al curry? No, esatto, noi abbiamo chiesto cappuccino e brioche. Cappuccino e brioche. Sì, questo è riso al curry però. Ah, sì, sì, sì. Corretto. Perché se vuoi andare avanti con Rundi, ti lascio, tranquilli, tanto mi trovate voi due. No, no, no, no, capito. Lui è il classico indiano. È gentile. Gentile, sì. Che non vuole scontentare nessuno, allora dice sempre di sì. Signor Rundi, tutto bene? Approfittiamone, scusi, sì. Freak, a sto punto allarghiamoci. Ah, international. Sì. Infatti, può essere occasione di rimedio. Da quando è in Italia? Approfittiamone. Tantissimo, tanto, tantissimo, tanto, sì. Abbastanza da imparare italiano. Ah, esatto. Abbastanza da non farmi capire. Una del vediamo repertorio, subito. Sì. Vediamo subito. Signor Rundi, avrebbe 100 euro da prestarmi? Sì. Ah, ottimo, Freak, questo potrebbe essere. Non ci vuole dovrebbe dargli adesso 100 mi può euro. Prestare 100 euro? Sì. Ecco, adesso dovrebbe darglieli, dovrebbe toglierli dal portafoglio e darglieli. Sì. Freak, non ci cambi un ragno dal buco, guarda, credo. Io pensavo. Ho una domandina, signor però. Rundi, sì. Con domanda geografica. Sì. Domanda geografica! E chi lo smonta, Rundi? Con cosa confina l'India? Oh, bella questa domandina. Ah, è facile. Oh, India confina con Pakistan. Sì. Cina. Nepal. Bangladesh. Bhutan! Ah, anche il Bhutan. Sì. Ah, come sono i rapporti di buon vicinato con gli altri stati lì intorno? Qualche problemino. Sì. Ma diciamo che i rapporti sono buoni, sir! Ah, buonissimi, buoni, con tutti. Con tutti, meno che con Bhutan. Ah, positivo. Col Bhutan la marca Bhutan. Male? No. Ah. Noi in India abbiamo detto. Ah, sì? Sì. Sì. Quale? Scusi. Quale detto? Maledetto. Signor Rundi, mi sto innervosendo. Cosa? Lei, noi in India abbiamo un detto. Quale detto? Quale? Quale? Quale detto? Che detto? Lei ha detto, noi in India abbiamo un detto. Noi in India abbiamo detto? Mi scusi, Rundi, ma lei lo fa apposta questo giochino? Sì. Sì, avevo intuito, sa. Ci dica il detto. Ha detto un detto. Ha detto che è un detto. Ci dica il detto. Ci dica il detto. Il detto è, se sei il figlio di Bhutan, sei un gran figlio di... No, di Bhutan, anche da noi si dice. Però mi scusi, signor Rundi, non è gentile da parte sua prendersela con quelli del Bhutan. Ecco. Anche perché anche loro in India hanno le loro belle magagliette. Sì, Freak, sì, sì, sì. Per esempio sappiamo che siete adoratori di vacche. A proposito, come sì? Sta sua sorella? Rundi, io l'ammazzo. Arrivederci, Rundi. Alla prossima. Dagli una spintarella. Quando è sulle scale, dagli una spintarella. Arrivederci, Rundi. Tanto c'è sempre la reincarnazione. Everybody's having fun. Goodbye to Romance, Ozzy Osbourne. 8 minuti alle 9 di quest'oggi, questo 19 di marzo 2008, l'anno della svolta contro il muro, festeggiamo il compleanno di Pane, Burro e Rock and Roll. E come non segnalare che i quattro numeri segnalati da Carla mi sono usciti tutti e quattro. Carla! Ma guarda te. No, speriamo, in realtà, perché oggi c'è un po' un casino che sono arrivati troppi messaggi, non riesco a stargli dietro. Però nessuno mi ha detto che ha vinto. Peggio per loro. Peggio per loro. Perché sono usciti tutti e due gli ambi. Sì, sì. Certo, li abbiamo giocati a Napoli e Genova, sono usciti Milano e Palermo. Quindi se le mettevano tutte era fatta. Sì. Io ci ho preso 70 euro. Ah, hai capito? Hai capito la sciura Carla? È perché io ho giocato Ambo Eterno, ne ho presi, su quel biglietto lì ne ho presi due. Esatto. E poi avevo gli altri due. Buona! Non è uscito l'estratto, però abbiamo preso. Senti un po', Carla, ma posso chiedere anche a te perché ascolti Rock FM? Perché mi piace. Ma adesso cosa avete detto? Quanti anni è che siete in diretta? No, la radio è da 18, però per Pane, Burro e Rock and Roll è un anno preciso oggi. E allora è 18, si dovrebbe giocare 1 e 18. Allora cambiamo 1 e 18? Vai, sì, ruota di Milano. Dove lo trasmettete? Milano. Allora fatelo Milano. Oppure possiamo fare 1 e 18, hai detto. 1 e 18 perché è 18 anni che siete. Esatto. Ecco. Esatto. Ma te hai parlato del 2000? 2008 e adesso. No, quello. Fai anche 20. Facciamo anche 20? Ma sì, che ce frega. Giochi interno. O possiamo metterlo sulle città dove si sente il segnale. Sì, Milano, Firenze. Ecco, Milano, Firenze. 1, 18 e 20. I numeri di Carla, quelli del compleanno di Pane, Burro e Rock and Roll. Ma senti un po', ma te l'ha fatta scoprire Carlo a te la radio? Sì. Perché sì. La sentivi là andando a giocare i numeri? Sì. Sì. Dopo mi ha dato la frequenza e l'ho messo e su. Ti sei sintonizzato e ti piace, oh? Sì. Ma guarda un po' te. Va bene, oh, ecco. Complimenti, ci hai fatto il regalo di compleanno. Comunque diciamo che se domani non ci sentiamo, te ripeti questi numeri. Sì, no? 1, 18, 20 Milano-Firenze. Carla, vediamo se siamo fortunati. Speriamo, guarda. Questi li ho detti così. Ok. Ho vinto. Ah no, eccola qua. Che Rosy ha vinto, vedi che è arrivata? Ah, ecco. È arrivata al volo adesso. Vedi. Ciao Carla, vedi. Buona giornata. Ciao. Non è solo il nostro compleanno, anche Daniela e prima c'era un altro, eccolo qui 37, Dave e c'era anche un'altra amica, forse Sara. Sara! 469. Questo era il modo per festeggiare il nostro primo anno. Siamo riusciti a far cantare e suonare delle cavie da esperimento che parla in maniera spicciata. Lo diciamo con orgoglio. Ci si sente domani, finché ci siamo, il 20 di marzo 2008, l'anno della svolta contro il muro. Grazie per aver partecipato. È stata la puntata 207, un anno di pane, burro e rock and roll. Una puntata emozionante. Quest'oggi il programma di Marco Garavelli non andrà in onda, ma ritornerà ovviamente domani per tenervi compagnia fino al mezzodì. Ciao da Mister Trombetta, Spadino che è malato oggi e Fricantoni. Pane, burro e rock and roll. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. È tutto per oggi, a domani.